Professor Berto, ho un minuto scarso per capire lei cosa ne pensa sul tema di fondo. Cioè, ha ragione Marchionne quando dice: io su 2 miliardi di utili non ne faccio uno in Italia, quindi non posso mantenere l'azienda in perdita? O ha ragione chi dice: sì, ma tu, se sei ancora vivo e grazie alle banche italiane, agli aiuti italiani e a quante volte siamo corsi in soccorso della Fiat? Sono due ottiche diverse. Marchionne guarda con l'ottica di chi giudica l'Italia già fuori dall'Italia, un gruppo globale che vede l'Italia come un mercato tra gli altri, è una realtà tra le altre. Perciò è qualcuno che recide la storia della Fiat, sì. Non c'è continuità. Qui stiamo entrando in una discontinuità, perché dall'altra parte, certo, se, come diceva l'avvocato Agnelli, Fiat, lo ricordava spesso, no? Dicendo perché voleva proseguire, Fabbrica Italiana Automobili Torino, diceva l'avvocato, e questa è una sigla piena di cose, piena di dati. Ecco, io credo che, lo dicevo all'inizio della nostra conversazione, probabilmente alla fine di questo percorso ci sarà anche la nascita di nuove sigle di imprenditoriali. Sì, quindi, proprio perché Fiat non è più la Fiat, diciamo, che conoscevamo noi. Esce dalla sua pelle.